oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Tra case e chiese una donna sta cercando chi non c'è più. E nel tuo nome quanta gente non tornerà. Libertà, quanto hai fatto piangere senza te, quanta solitudine fino a che avrà un senso vivere. Io vivrò per avere te. Libertà, ogni giorno.